qualcuno su questo canale? CQ canale 10, c'è qualcuno? CQ canale 10, c'è qualcuno all'ascolto? Non c'è nessuno? Allora musica. C'è qualcuno qua su 10? Io sono un paio di mesi in stazione del PMR. è blu acceso. Ah, vabbè, io lo stesso, il mio l'ha sempre spento. A casa lo tengo acceso, sai dove? Nel link nazionale ascolto. Però ascolto più, cioè, sento più questo imbecille che disturba che gli altri che magari parlano di radio, insomma, di qualsiasi cosa. Ma c'è sempre lo stupido che rompe le scatole. Quello vuole ricoverare al manicomio, perché come minimo è fatto. Se no non avrebbe fatto certe cose. Per carità. Lui è vero, tutto il mondo è paese. E quello non è roba nostra, è quello che Gesù, ma quello è roba da fuori. Sì, vabbè, roba da fuori sì. E allora, che guaccio, che non sa cosa fare, non sa come risolvere la gente, non si mette a fare il cretino, si mette. Purtroppo, io l'accendo quasi mai lì, qualche volta, ma poi quando l'accendo non c'è sostanza, non ne vale la pena secondo me, perlomeno per i miei gusti, di ascoltare lì. Lui? Beh, in effetti è così, dai, in effetti è... non è bello, dai, se sentivo questo qua ogni volta offende, ma sono cose belle, e vabbè, raga, moriva se ho fatto il biccio. Sicuramente sì, sicuramente la gente che fa il biccio, ma comunque questa gente qua vorrebbe eliminata, purtroppo, la mente umana è anche quella, cioè i pazzi ci sono anche. Chi è che vuole entrare avanti? Nessuno. Beh, noi siamo qua, la porta è aperta, anzi spalancata. Per cui se vuoi entrare sei ben accetto. E va bene così. E ti dico anche buonasera, va? Sì, bene, accetto balsamico. Quello a 90 gradi. Come le cipolline che ho mangiato io in mezzo alla colazzella, con le olive, oggi. E poi viene a limone, e se no ti vendaggio un sobongo. E andava bene, di lusso, perfetto. Ma che, tagliatelle, poi c'era un po' di coso, di, come si chiama, poi un tacchino, e poi ho fatto la colazzella a mia moglie, in agrodolce, con le olive già snocciolate, le cipolline, eccetera, eccetera. E poi che lavoro. Oh yeah! E stanotte mi andai giocato mezzo buco. No, stanotte leggero, un po' di insalata, una spinaccina, e frutta secca anche, guarda se mancano le noci. C'era un periodo, il padre gli aveva regalato comunque c'era un bel po', con le buste di carta di mandorle. Mi hanno fatto un male, Giulio, guarda, ui, se ne mangiavo troppo, invece mangiarne due o tre, ne mangiavo 20, 30, 40, 50. Ma guarda che mandorle in grossa quantità, non sarei da mangiare, le mandorle sono velenose, se tu ne mangi una certa porzione, ti avvelena, è un'idea. Le mandorle sono buonissime, ma mangiate in misura molto, molto, molto ridotta, non abbondanti, no. Le mandorle hanno il veleno, lo sai così. Vabbè, una tirava l'altra, ma infatti già erano rimaste, se le sono mangiate loro. Intanto già le mangio due contatte, due, proprio le sbuccio, ma le mangio. Se no mangio noci, le noci me le mangio 3, 4, 5, dipende. Molte volte non le mangio, dipende dal momento, capito? Sì, le noci sì, noi prendiamo quelle già sgusciate, per cui già le prendiamo anche noi, però quando si mangiano, se ne mangiano massimo una decina o di più, ma se ti ne mangi un pacco ti avvelena, non sai che le mandorle contengono una parte di veleno, contengono, e dunque se tu te ne mangi in una grossa quantità ti stai avvelenando. E non ci metti diverso, però ci hanno un altro problema, che fanno ingrassare, quello sì, perché sono molto, molto grasse, però uno lo si innaffutti, se ne mangia e basta, non fa niente. Giusto, lo so, quando ne approfitti non va più bene. Sapete che fa, infatti baghissimo. Perché sono proprio quelle, le sbucce del padre, c'è un albero grande in campagna, ne fa un bel po'. E ogni tanto gliele dà. Ma se non gliele dà è meglio. E così. E poi guarda, molte volte non sai cosa mangiare, ti metti a mangiare. queste cose, avevo fatto un blocco. Io mi ricordo, avevo prendeva l'Eurospin, adesso con le bustine da 100 grammi mi sa, ma sono mangiato un giorno due pacchi, ci credi che sono stato non male, non di più, male, male, male, guarda, non ti lascio immaginare. E te lo credo, ti dovrebbe prendere subito un bicchiere di latte, ti dovrebbe prendere, ti avrebbe disintossicato, e io lo credo, ti avrei mangiato un pacco e ti sei intossicato, ti sei avvelenato, te lo credo. Allora compriamo quelle già sgusciate, no? Vendono nelle buste confezionate già pronte a mangiare, non c'è bisogno di sbucciare niente. Sì, la mandano perché le noci o Luca. Sono buone, moltissimo. No, quelle sgusciate no. Vabbè, ma sono uguali. Poi c'era un periodo che mangiavo gli anaccardi si chiamano, sì. Lì sono a testi, mamma buona reviso. Però quando mi attacco, infatti meglio che evito, non si sa mai chi da voi, non sono cose belle. Mi sai, ma vicino un attimino in cucina, che ho leggermente, oddio, fame, no, ma volevo mangiare qualcosina, dai, lascio acceso, se entra qualcuno, anzi, vediamo un po', c'è qualcuno che vuole entrare? Una alla volta, dai, non sovramodulate però, giù, mi stavo sovramodulando. Veramente non sento nessuno. Una alla volta, e troppi sono. Vabbè Luca, vai a mangiare, dai, già sono qua io. Intanto nel frattempo, se non entra nessuno, metto una canzone in sardo inedita, dai. Ehi, giù, dai, già sono già acceso qua. Scappa. Fai il DJ. Sì, ci vuole. Vero. Chi è così italiano? Giulio. Ciao. Ma Daniele. Sei tu, sì? Mo che sì, già sono io. Ok. Luca è andato a fare merenda, dai. Eravamo io e lui. Stavo per mettere musica, per svegliare un pochino la gente. È stata un'allegria. Ma comunque, se sei tu va bene così. Niente musica allora. Niente musica, la musica non parti. Mi ha fatto scaldare i motori qua, Giulia. Che era qualche giorno spento. Ok. Vabbè, fai scaldare i motori già. Già ti sento bene, non c'è problema. Siete troppo forti. Sai che troppo forte ti sento, questo un po'. Troppo forte, giù, se te la facciamo un po'. Aspetta, guarda un po' adesso cosa dice, 1, 2, 3, 4 e 5. Va benissimo così, dai, lascia stare, aspetta che abbasso il telefonino. Come vedete lo fanno un più attaccato, ma no. Ok, avanti. Daniele, col bambino se stai messicciato. Stava chiedendo informazioni, stavo dando retta anche a lui. Quando sono qua è un macello. Vabbè, il bambino è logico che sia così. È giusto anche che sia così. Allora quanto lo vuoi, bambino? Lascialo correre, lascialo sbizzarrire che è tempo suo. Quello sì, che ha preso l'Xbox e mi sta facendo diventare scemo. Vabbè, bambini sono belli quando sono vispi, non quando sono tutti tanti caramagliati, dall'umidi, lasciali giocare, lasciali saltare, poi lascia che facciano chiasso, perché i bambini sono soprattutto allegria. E certo che sì, e si conferma. Io grido. Però come vento la già non ti manca, come vento l'alimentatore già non te ne manca, peggio di me. Lo so, mi sono già preparato per il periodo caldo, almeno così mi fa riaffresca, mettiamo anche il ventilatore. Infatti ti fa due servizi, ti alimenta la radio e ti rinfresca anche. Ma certo, è così che vuole, allora. Anche le mie era così, ci ho messo una resistenza e ho abbassato i giri della ventola, li ho fatto abbassare e dunque si sente di meno. Sennò prima era un tormento, era. Mamma mia. Vabbè, purtroppo l'alimentatore è quello, non ne ho altri. O meglio, ne ho altri, però non sono abbastanza potenti come sono da noi sarà 30, quello che ho al trasformatore invece da 12, no da 9, no da 12, da 9, e però me ne dà continuo, me ne dà solo 7 ampere. Poi gli altri, vabbè, c'è un paio di quelli da 3 ampere di una buccia che ci usavano per alimentare dei cioccolatini, diciamo. Ehi, ormai c'ho come troppo giù, più là già me lo prendo uno. Come i cristiani, anche questo, guarda, è uno schifo, tutti i cesi, a prescindere dalla vetra, e quello vabbè si può risolvere. Ma poi ogni tanto fa rientri, fa poco un casino, che... Ma qui, ma l'altra radio inizia a fare rientri dappertutto. Lo so, purtroppo sono così. Gli alimentatori switching sono così. L'ideale sarebbe il trasformatore normale dell'alimentatore e basta. Come una volta, solo che costano un sacco di soldi, costano. Per la baracchino costano un buon alimentatore di una trentina di ampere. Costa intorno ai 150, 160, anche 170. Se lo vuoi buono, se lo vuoi poi così, allora puoi pagare anche 120, una cosa del genere, Daniele. Però se uno spende è inutile stare lì a risparmiare, perché chi risparmia più spende. Esatto. Avanti Daniele, fammi entrare tu questo amico che ci fa compagnia. È iniziato il break, una buonasera. Compagnia di Daniele e Giulio, avanti. Ciao Daniele, ciao Giulio. Volevo controllo di radio, sto provando un altro microfono. Allora tiro subito il microfono, ciao Tonino. La radio è chiara, però c'è un fischio sotto, c'è un innesco. Tutto lì, Tonì, avanti. Però la radio è anche forte, oltretutto è anche chiara. Però c'è accompagnato da questo fischietto. Guarda adesso se c'è il fischietto. 1, 2, 3, prova. Sì, peggio che mai, anzi, è anche aumentato adesso. Lì. Addirittura ha abbassato il volume. Beh. Vabbè, allora lo monto sul Galaxy. Questo è il famoso Tarn Super CD Rick. Ho capito, Tony. Ho capito. Dai, ti vado avanti. Daniele ti vado avanti, vediamo un po' cosa dice lui. Così almeno. Oh, già mi piace la musica a me, mi non ti preoccupare, se c'è il fischietto, per me va bene lo stesso. Però lo voglio dire, se lo togli, è una cosa tua, se lo vuoi togliere, se lo andiamo bene per me. Chi se ne frega? Tanto che ti capisco, poi se sei accompagnato anche dalla musica mi fa anche piacere, figurati. Vai Daniele. Bianco che mi stanno chiamando. Guarda adesso se il fischio cioè non c'è più. Adesso sei immacolato. Adesso va benissimo. Amplifica sì, con il microfono. Adesso va benissimo Tony, questa è la grande, Questa è la grande, bella radio, chiara, molto bella, molto molto bella. Ma amplifica Giulio. Sì che amplifica, è amplificata la radio, certo che è amplificata. Non è un microfono normale, è amplificata. Ecco, la lascio così, dai. Bene, Meda, niente, ho abbassato da 5 watt, giustamente con 10 non me la monta, capito? Non ce la fa. Ho capito, sarà questo. Ma dimmi una cosa, ma nella radio c'è il Mike Gain per casa, guarda che quando c'è il microfono amplificato, il Mike Gain devi abbassarlo, il Mike Gain della radio, lo devi abbassare, perché se no quello l'innesco, ok? No, ma qua non ce n'è, io sto usando il President, l'ho montato qua il microfono, capito? Non ce l'ho attaccato sul Saturneco. Ho capito. No, così va benissimo, alla grande così, Tony. Così alla grande. Però io non capisco come mai se aumenti i watt che debba fischiare. Boh, ci sarà qualche altro problemino che non mi viene in mente. Non lo so, Tony. Non lo so, neanche io, giusto. Vabbè, comunque, non lo piazzo sul Saturneco perché... Qua ho provato però non... come piace, invece là mi sento anche in cuffie, qua non mi sento in cuffie invece. Ma così va benissimo, non è un problema, io anche con 4 volte, cosa andiamo a fare? La buglia era grande, arrivi 9 più 5 quasi, quasi modulati, con 4 vatti, e cosa vuoi di più? Va più che bene, Tony. E l'importante poi già lo sappiamo, è la radio, Giulio. Farsi sentire bene, è chiaro, tutto qua. E infatti, no, per la precisione sei quasi 9 più 10 modulati, quasi 9,8, dai. E mentre invece di portante solamente sei in 9 più 5, e che va benissimo. Vabbè, poco fa sei in 9 più 15, d'accordo, sarà quello, non lo so, sarà quello il motivo, Tony, non lo so. Niente di strano. Sì. Niente, tanto casino attaccato spinotto. E poi, alla fine, gira gira, me lo rimetto di nuovo alle Galaxy. No, io la spinotto non lo tocco mai, io il microfono, sai cosa faccio? Faccio uno spettrone, faccio, e il microfono rimane sempre originale, no? Con il suo spinotto, eccetera. Però la modifica viene fatta nella stazione, prendo un pezzo di filo, ha più capi, ha più fili, e metto quello. Ad esempio, quello che hai tu dovrebbe funzionare addirittura con 3 contatti solamente, non 4, addirittura con 3 contatti, col microfono lì, col tunnel. Sì, 3 contatti giustamente, ma questo con 4, perché questo precedente, quando togli il microfono, manca la ricezione, quindi cerca la ricezione, e quindi automaticamente metti i 3 fili, capito? Cioè i 4 fili. Sì, giusto. Se per caso la radio non ha la ricezione diretta, sì, hai ragione, allora ci vuole 4 fili obbligatoriamente. Mentre invece se non c'è bisogno per la ricezione, allora bastano anche 3 fili, con quel microfono, con altri microfoni il discorso cambia. Va benissimo. Adesso ho messo il suo mic originale, che differenza c'è, Giulio? E rimane un po' più basso, però sembra bello, pulito, chiaro. Non diciamo che non dispiace, è bello lo stesso. Naturalmente è più basso. Sì, sì, dai, me lo metto sul Galaxy, dai. Così esco di nuovo come prima. Questo è il secondo Tarnes Super CD che ho capito, che uno l'avevo dato a Gianni. Ok, sì, beh certo. Vanno bene, dai. Sono radio di vecchio stampo, quelle che vanno bene, Tony. Lo sappiamo, dai. Ma io mi ricordo sempre, negli anni che furono, quando tu abitavi nella zona di Sassari, eccetera, zona vecchia di Amica Piccino, c'è bisogno che te lo dica perché lo sai più di me, dove abitavi, ti ascoltavo con un Galaxy e con un Turner più 3, ma era una bomba, era una meraviglia eccezionale. Me lo ricordo come se fosse oggi, guarda. Sì, me l'hanno detto tutti, me l'hanno detto. Anche Gianni che, come radio era forte, aveva un Turner più 3 bidattavolo grigio. Lo so, quel Turner poi ha fatto fine brutta, nel senso che l'ho dato a una persona e poi ce l'ha venduto qua. L'hai dato in mano a una persona onesta, allora, ho capito. L'hai dato in mano ad una persona onesta. Vabbè, di quelle persone ce ne sono tante, oneste così. Roia, ma è tua fida, titoli, bobo. Vabbè, l'avevo venduto, capito. Un attimo, mi stanno chiamando al telefono. Ok, vai pure col telefono. Ecco, vediamo qua. Veloce, telefonata veloce, sì, sì, sì. E beh, a proposito, il discorso della schiena, tutto è andato bene, sì. Hai risolto definitivamente, Tony. Ma cosa, un'idea me l'ha tolta, ma è subentrato un'altra conseguenza, che sto partendo di nuovo il giorno 16 aprile per farmi l'altra operazione. Di nuovo, in ora buona. Che ci c'è, vabbè, si vuole fatta, sempre migliorare la situazione, tanto meglio. Manuele, che non ho più sentito, come va? Manuele alla grande, perfetto lui. Meglio così, dai, sono contento per lui. Vabbè, adesso risolvi anche tu, dai, se c'è bisogno di quest'altro piccolo interventino, lo fai, d'altronde così. La vita è così, ogni tanto bisogna anche andare a fare visita da quelle parti. Io quando è che sono andato scorso sono andato a fare un'altra applicazione di terapia, sono stato male tutto il giorno naturalmente, e anche un pochino l'indomani, ma comunque mi era passato il bruciore. Adesso ci devo ritornare fra 6 mesi. Comunque era meglio se non rispondevo al telefono, ma falcina pure a me. Mi ha chiamato un'amica, e sto portando il cane. Adesso già nasce due, io avrò già 3, che poi il suo cane è di un'amica mia, è obeso, magna un bel, la mazza gliene fare, fa c'ha un vizio di prendersi dalla cuccia e le copertine che ho le porta in giro. Ah, che rottura! E tu, sai cosa fai? Non mi viene, non è, lui non si muove. No, non va bene, non va bene, ragazzi, l'animale. Vabbè dai, se nel posto dove sei tu già vai a postare, solo che è fastidioso, se fa così, e tu ammettalo, prova a domarlo, come se battere dei cavalli. Oh, ma c'ha quasi 2 anni, insomma, meno grasso che mangia un bel. Infatti, guarda, quel giorno ti muore a te, fa troppo grasso, è gonfio. È una rottura di palle, e poi lei mi va a dire, siccome lì sta lavorando qua a Sassari, no? Lei di un paese vicino al Ghero. E io non è giusto non tenere sempre la mamma il cane. Ma scusa, io mangio via 2 cani, me ne tengo io e non le do nessuno a rompere le palle. Anzi, chi sa, se abbia 2 cani deve dare all'acqua, è quello che mi dà se fastidio giù. Sono le classiche persone che le piace il cane, ma sono nette di increscio, così si dice a Sassaro. Se ti piace, però sei detto di crescere, non vuoi nessuno di più, boh, è così, vabbè, cosa vuoi fare? C'è una tua amica che lo merita, puoi anche farlo, non è problema, o Tony. Merita. Diciamo che però è una tromba amica, dai. Allora, amico, dai, cosa vuoi? allora, cosa vuoi fare? Dai, siete tutto un'unica persona. Vabbè, però a me mi scoccia, già ne ho 2 io cani. Già, ho detto, porca miseria, devo prendermene uno, e poi me ne abbiamo per un altro, sono 3, porca miseria, raga. E vabbè, cosa vuol dire, giù, pazienza. Niente, dopo mi diletto, siccome c'è lo smitter, questo presidente, che ha la lampadina che è un po' bassa, io le voglio mettere un LED che si illumina di più, così è più bello. Sì, ci metti il LED, ci metti, se c'è la lampadina, chiaramente devi mettere anche la resistenza, devi mettere, perché se no il LED, già lo sai, non c'è bisogno che te lo dica, si brucia, perché sono di bassissima tensione, 3 volte, massimo, 3 volte e mezza. Per cui devi abbassare prima la misura, la tensione, se ci sono i soliti 12 volte lì, ci metti una resistenza almeno da 100 ohm e così poi controlli sempre la tensione e ci puoi attaccare il LED, perché se no te lo fulmina, non c'è bisogno che te lo dica, se no torniamo alla lezione ieri dell'elettricità, mi sento niente. Che ho preso proprio un LED da 12 volts, capito, senza fare altri giochetti. Sì, però vedi, lezione qua e là, però nessuno ci ha dato nulla, il compenso, o un applauso, proprio non si va a riuscire. Allora, cosa vuoi fare? Ma sono generosi. Vabbè dai, diciamo che è stato anche un bel questione ieri sera, almeno se no abbiamo parlato qualcosa di importante. No, ma ho visto che già erano interessati, gli amici che erano con noi già erano anche loro interessati al discorso, dai. Beh, certo, non lo so, vedo qualcun altro magari sarà stato noioso, però io ritengo che sia più noioso perché come sai, tanto dismesso e tanto disabbarremendi. Aspetta che cambio il microfono, dimmi così, quello è più noioso per me, invece il questo di ieri per me era anche istruttivo, perché non era addentrato in certi settori, in certi campi. Sì, ma infatti l'hai detto anche Claudio ieri, era un questo diciamo particolare, interessante, dice, infatti io stesso dice, non sono entrato in merito perché non è competenza mia, ho ascoltato. Poi giustamente chi non sa e gli piace l'argomento ascolta e qualche cosa insomma avrà capito, perché queste lezioni si fanno sia orale che scritte, capito? Per capire meglio, ok? E vabbè dai Giulio, comunque abbiamo fatto un discorso un po' diverso dagli altri, però aver le sempre le solite cose. Certo che sì, effettivo, lo so, quello è una persona intelligente già, già queste cose a lui, anche se lui non è addentrato, però è voglioso di sapere, di capire di, e di imparare, è una persona intelligente, io penso che tutti dovrebbero essere così, anche se una cosa non è una cosa che tu hai mai fatto, che ti sei mai interessato, trattandosi soprattutto di parte elettrica, che tra l'altro fa parte anche un po' della passione che abbiamo per la radio, io penso che uno si dovrebbe anche interessare, stare con le orecchie ben aperte e imparare, e se è necessario chiedere anche, in modo che gli venga spiegato il tutto. Io sono così, Claudio è intelligente, non è uno così, e lui queste cose le sa, però le devo avviare, sì, più mani di un coso mi viene ascoltando, cosa ti credi? Lo so che è così, e va bene. No, ma ci credi che io da ragazzo e poi sin quando mi sono sposato, poi eccetera eccetera, io non ho mai chiamato l'operaio Giulio, mai in casa mia. Tu, io guarda, io se ti dico, io ho fatto la casa, no? A me sai cosa mi ha fatto il muratore? Mi ha fatto i muri perimetrali, il solaio e l'intonaco. Anzi, qualcosina dell'intonaco me l'ha anche lasciata così. Perché sono buttato un verso che l'ho pagato prima, dice mi sento male, ho mal di schiena, dice adesso vado, ma che cosa ho fatto? Ascolta, io ti do i soldi adesso, poi quando ti rimetti a posto con la schiena, ritorni, non vuoi mai più tornato. Praticamente mi ha fregato una parte, ma comunque un compro le faccia, non è quello che mi interessava. Non sono arrabbiato nemmeno con lui, figurati. Intanto è un po' maletto e duburo, per cui ma io l'ho aggiornato, se come giorno e mezzo per la radio, non erano due spiccioli. Per dirti, e ti posso dire che io ho fatto qua tutto l'impianto elettrico, tutta la pavimentazione, tutto l'impianto satellitare e TV, tutto l'impianto telefonico, tutto l'impianto idraulico, per dirti, no, anche quella è una storia che ti posso anche raccontare, te lo dirò dopo, dai, per non fare passaggi troppo lunghi, vai Tony. No, idrico lo faccio anch'io, quindi no, non c'è problema. No, io ho fatto anche l'intonaco più di 30 anni fa, ero più ragazzo, quindi niente, avevo comprato questa casa che tutt'oggi c'era mia ex moglie, e i muri non mi piacevano, sembrava un po' di umidità, tutti picchiettati e portati a cantone, spruzzati con sabbia lavata e intonacati, impianto sotto traccia, tutto fatto, idrico, elettrico e anche il pavimento fatto, e placcaggio, ne ho fatto dei travagli, il bagno l'ho fatto più grande, pavimento nuovo, rialzato di 10 cm con gradino, ho fatto un bel lavoro, dai, dato di cose, il cranetto, ma comunque, vabbè, non la Gimbergana però a farci i travagli, adesso più lavori più leggeri, sì, più atletico te lo faccio fare, civile industriale non c'è problema, ma altri lavori a sfaticarmi eccetera, abbassarmi, inchinarmi, no, ma capirai, con la schiena poi, non posso perché sono in queste condizioni. Niente, io ho già fatto il biglietto all'aereo, sono riparto il 16 e vado a operarmi di nuovo. Ho già prenotato anche dove vado a dormire, 3 notti, perché poi sono ricoverato e poi riparto. Insomma, io ho fatto il 16, riprendo l'aereo per ritornare da Bologna il giorno 25. 10 giorni ho calcolato, già va bene. Ok, Tony, beh certo. Sì, anch'io ho fatto pavimenti, ho fatto rivestimenti nei bagni, tutto io ho fatto. E ti stavo dicendo, io ho trovato una persona, no, che lamentandosi che non aveva lavoro e che si doveva fare delle porte, si doveva fare per casa sua, però dice non vado di là perché non ho lavoro, e allora, ascolta, facciamo una cosa, tu fai l'idraulico mi sembra di mestiere, no? Sì, io faccio l'idraulico, e allora mi ascolta, io devo fare i due bagni, devo fare. Se tu mi fai l'impianto in questo del bagno, no, tu mi accetta, non gli accessori, no, gli accessori già li provo io, no, mi fai tutto l'impianto, mi fai, e io ti faccio le porte, e abbiamo concluso così. Va bene, sì, io ci sto, va benissimo. Ah, ti sono messo un grande favore, eccetera, eccetera. Guarda, tieni presente che mi costa 18. Io so benissimo cosa costa un impianto idraulico in un bagno, perché i cantieri io li frequento da 50 anni o da 60, e so benissimo di cosa si tratta. Sì, non ti preoccupare. Vabbè, sono stato un paio di giorni senza venire qua alla casa, no? Guardo, e c'erano tutti i tubi, tutti giuntati, no, così non mandare, io voglio il tubo intero, dalla rastrelliera, dalla centralina, tu mi devi pulire tutto il tubo intero, fino al rubinetto, non a pezzi, tutto a pezzi, perché un domani se quello lì c'è una perdita, io devo fare tutto lo marcaggio, devo fare. Tutto così, non c'era, prendo e straccio tutto, tutto quanto lo stracciato. In domani vedete, ma tutto mi hai stracciato. Sì, mi ho stracciato tutto perché dopo quello che mi stai facendo non mi piace proprio per niente. Io le porte te le ho fatte come si deve, tu ce le hai a casa tua, mi stai utilizzando, eccetera, eccetera. Comunque non è quello il problema. Ma io dici un baggio di là, comprare una via di ribezzi, no, non è che sono ribezzi, no, assolutamente, ascolta, fai una cosa, lascia perdere tutto, vai, ti regalo le porte che ti ho fatto e ci penso io a farmi l'impianto come si deve. E me lo sono fatto io con i tubi diretti dalla rastrelliera, e cioè dalla centralina fino a cosa, ogni servizio ha il suo rubinetto di d'arresto o nella centralina o Tony, e così ho fatto. E mi deve avvenire a pezzi, mi deve avvenire. No, non ha senso a farlo così. No, centralina, ma no, giustamente, quante uscite ci sono? 5 aree di acqua fredda e 4 aree a calda, insomma. Perché sapevi quello del gabinetto, io ho detto una cifra X, adesso potrebbe essere qualcosa di più. Fai quello giustamente la vaschetta delle WC, giustamente va solo fredda e basta. Ma comunque io ho fatto sempre da me, perché ho pensato a chiamare questo, pagarlo, lavora come ho visto altri lavori, che questo piano piano, con calma, e questo tipo, amico mio, aveva troppo bisogno, poveraccio, per il di festa, e questo no, domani è festa, non ci vengo, e quello va bene senza acqua, e si arrangi, capito? Me l'ho già pagato, anticipato, sbagliato, ha detto io un domani l'ho agiparato, fa tutto da su, me l'ha giovato io, non ho speso, ho preso solo il materiale e basta, grazie a Dio sono rimasto contento, ho usato non diciamo il rame ma il multistrato, perché lo puoi lavorare meglio. Allora il multistrato è bello, ma ti dico una cosa, i raccordi costano molto di più, il tubo e il rame costa un po' di più ma costa di meno i raccordi, quindi ho fatto multistrato perché è l'unico che c'è, plastica, alluminio eccetera in mezzo, lo lavori senza avere il macchinario, perché il tubo e il rame per fare la curva deve avere la macchinetta, mentre il multistrato no, quindi è una tubazione molto migliore, comunque, e ti ripeto, sono passati i miei 30 anni ed è perfetto come lavoro. Niente, non ho mai chiamato nessun operaio perché non mi interessa niente di questi operai a me. Tanto se mi dà un bel denaro. Io quel giorno ho fatto un giochetto, ho voluto fare lo scemo, ho voluto fare. Ho staccato il neutro dal contatore, ho tagliato il cavo, il rame, ho rinfilato solo con la guaina del contatore. Ho chiamato l'elettricista, ho detto non mi funziona più niente, guardi, questo comincia a cercare a fare quello, quell'altro, lasciando un'ora in mezzo, alla fine mi fa Giulio, e ascolti, qua bisogna fare tutto l'impianto nuovo, ci vogliono 1500-1600 euro, qua e là, ho detto tu sei l'elettricista, ascolta, perché non fai di nuovo le scuole, perché guarda cosa c'è, ho tolto, ho svitato il contatore, il neutro, vedi, non c'è il rame, ci manca il neutro, cazzo, ha fatto una figura di cacca, per carità. Io ho fatto fare una brutta figura una volta a quelli dell'Enel, quando mi stavo nell'altra casa, a un certo momento, non c'era più tensione abbastanza, cosa era successo? I carri che entrano nell'Enel al contatore, c'era proprio un filettino e nonno, non c'era questa tensione. Guarda, abbiamo chiamato l'Enel, guarda che così e così, no? Aveva telefonato mia moglie, io ero al lavoro. se non c'è corrente elettrica, quando attacco qualche cosa subito salta, salta anche accendendo la luce di qualsiasi camera, salta subito il contattore. Chiamare l'elettricista, secondo me, a telefono, no, l'ho già chiamato l'elettricista, mi ha detto che dipende da voi, da lei. Va bene, già veniamo, sono venuti, hanno controllato la tensione, c'era 220, ma non vedo per radio. E allora cosa mi ritenni? Prende e se ne sono andati. Quando sono rientrato io, siamo sempre nel capo con il discorso della luce, quello è vero. E allora, dice, sono venuti, ci hanno misurato, dice, attenzione c'è, ma lei dice che dipende dal piatto elettrico, no, non dipende, ascolta per una cosa, noi abbiamo una superietica abbiamo, no, dammi la superietica, quindi l'attacco, vuoi dare già attaccata, quella c'è stato, 3 minuti, è saltato, non c'era più tensione, nulla del tutto, avanti, allora è nel bel fuoco, il telefono lei, ne sono venuti, quando sono venuti gli ho detto, siete bene, questa è la terza volta che siete venuti qua per capire che non c'era amperaggio. E lei come fa a saperlo? Io lo so, più di te lo so, perché io ho fatto un elettricista, e sono un elettricista, e l'impianto qui è a posto, tutto in regola, controlla il contattore, quando hanno tolto il contattore sono accorti che c'era un filo sottile attaccato, dunque non reggeva o Tonini. Sì che ti puoi immaginare, dice ha ragione, dice, non c'era la tensione, però non c'era abbastanza amperaggio. Ho capito, l'hai compresa, l'hai, è andata mai per città, tutta la lì senza luzzi, capito o Tonini? Vecchi me! Che registrato, ehi, dai che è venuta l'amica mia, bisogna fare un'altra fuori X, fai tra le brecche giù. Avanti da Daniele. D'accordo, Tony, ci sentiamo allora, dai. Avanti, Daniele. Scusatemi, mi sono assentato. Ciao Tony, buon proseguimento e buon tutto, dai, ci ascoltiamo le Prussia. E intanto Giulio, che si dice? Cosa si dice? Così, scambiando 4 chiacchiere, mi si è considerato occupare lo su, stavo facendo 2 cornici, ho fatto per 2 quadri, per cui visto che avevo un pezzetto di materiale, c'è una macchinetta qua e mi sono fatto 2 cornici. Sono grandetti, perché sono cornici per 2 quadri, non è che sono quadri, sono dei quadri, sì, però, e sono dei cavalli belli, molto belli, dei quadri, dai, perché mia figlia si era divertita a farli, e allora avevamo sempre questi quadri così, li avevamo sì incollati su un pezzo di masonite, li avevo incollati, se no si perdevano i pizzi. Adesso ho deciso di fare la cornice, visto che avevo un pezzetto di legno, e l'ho fatta, dai, domani la è incollata, domani la pulisco e la verniccio, così vabbè, andiamo avanti. Buonasera. Ciao Cla, ciao Daniele. Ehi, buonasera a tutti e due. Buonasera Claudio, buonasera, ben sentito. Ciao, buonasera a tutti. Vai, un elicottero, vai Daniele. Avanti, grazie. Mi c'era Tonino fino al momento qua, però adesso ho ricevuto la visita e sono dovuto assentare. Vai Claudio. Ehi, ciao Giulio, sì, vi stavo ascoltando, mi stavo preparando per portare il cane, invece l'ho portato a mia figlia. E quindi io mi sono seduto qua a fare 2 chiacchiere. Ciao Giulio, ciao anche a Daniele. A Giulio, Daniele, mi pare un elicottero. Lo so Claudio, lo so, guarda, dillo a me che ce l'ho qua a fianco, e non so io per metterlo, ma come a modo, caro, ne prendo uno, ne prendo, va. Tanto questo non serve a niente. Ce l'ho l'alimentatore di linea, ce ne te lo fa, io ce l'ho, non l'ho mai dato. Mi sto mandando la foto, io c'ho solo questo, va. Non ho più niente. Più niente, che è questo? No, che lo sto mandando, agita, anche sbagliato, Massimiliano lo stavo mandando. Riprendi Giulietta. Attenzione, Brecco! Avanti il Brecco, ben arrivato, avanti! Certo che ci arrivi, già lo credo, perché noi siamo sempre con la porta spalancata, anzi col portone spalancato. E tutti quelli che vogliono parlare sempre è libera la frequenza. Avanti e riprendi, sono con Daniele e con Claudio, vai! Controllo, è andato benissimo, Santiago 8, da importante Moldovati 9, la radio perfetta. Io ti do 430, Santiago 7, radio 5, Tino, perfetto, alla grande, lo porta bene. Ascolta, Santiago 7 non ci credo. No, Santiago 7, radio 5. Va bene, allora vuol dire che arriva così questa qua. Però c'è picchi positivi a 8 abbondante, ho detto lo porta bene, va bene. Sì, sembra di sì, devo controllare stazionario, adesso non fa, perché devo mettermi la scala, era giusto per vedere un pochino come sta andando. Giulio ha cambiato così, guarda, questa è la prima posizione, sono aiutato un pochino, guarda qui, cambio anche l'ampli. Adesso lo tolgo, guarda un pochino. Ora lo tolgo, guarda se c'è la cosa. Sì, prima era più forte, prima eri 9,5 praticamente, modulati 9,10 quasi, qua senza quasi, modulati, per cui è cambiato, sì, certo che è cambiato. E cosa hai messo, l'antenino? Sì, dai, un antenino della macchina, l'ho messo qua, per non far attaccare la mantova, che non va bene. Va bene, dai, vi ringrazio, lascio a voi il questo che... vado a cambiarmi, che poi devo riuscire a prendere il ragazzo, magari se poi ci deve più tardi a casa, dai. Ok, d'accordo, sì, va benissimo, dai, la radio non c'è bisogno che te lo dica, perché è ottima, per cui va bene così. Vediamo se è rientrato Daniele. Ecchime. Avanti Daniele, avanti. Ehi, giù, qua sono, va bene. Intanto al discorso di Boccanti, giuro, fammi sempre le persiane, adesso è primavera, poi riprendo. Cosa ti viene? Tradizione delle persiane, così hai detto. Le persiane. Le persiane, come sono? Trasparenti sono le persiane oppure tinteggiate, come sono? Sono trasparenti, c'hanno giù, però adesso si sta sfogliando, mi sembra che sono state fatte 15 anni fa, 20 anni fa, una cosa del genere. Però il legno è sano, capito? Quindi adesso come la drizza il tempo e sta a fare un po' di tepore, una scarteggiata e tricche e tracche. Certo, Daniele. Sì, infatti, prima una bella sfoderata, dopo prima di tingere, dopo che l'hai carteggiato con la carta abrasiva, senza bisogno di... anche la spugnetta, una spugnetta abrasiva va bene. E poi gli dai una passata possibilmente di impregnante normale, trasparente sempre, a meno che non abbia bisogno di colorare qualche pezzo o qualche cosa, allora lo devi colorare tutto intero, la persiana. E poi gli dai sopra la due mani di cosa, almeno due mani di vernice idrorepellente, cioè effetto cera, impregnante effetto cera, sempre trasparente, non la prendere mai colorata quella, mai. Quando devi colorare prendi sempre prima l'impregnante normale, perché se no poi fai un macello nero. Mi sono spiegato? Di lusso. Vabbè, è stato già attenta mia moglie a farcele, io le stacco dalle cerniere, le metto sul banchetto e lei se le si appenta. Bene, e tu ne hai per almeno 3 anni. Se fai quell'operazione lì, con quelle tre mani di vernice, una di impregnante normale e due di idrorepellente, per almeno 3 anni hai le persiane sempre belle, lucenti. Avanti Claudio. Io ero vero, mi trasciamo in tema. Io ho gli sportelloni, Giulio, e li avevo dato l'estate scorsa, sono ancora luci belli, li avevo dato il flatting e quello marino, già va bene, no? Per riservarli dalla salsedia e dal sole. Certo che va bene, però non devi esagerare col flatting, perché col tempo se non si sfuglia. È preferibile usare sempre l'impregnante. Il flatting va benissimo, è un'ottima vernice, però troppe applicazioni l'una sull'altra, a meno che tutte le volte che devi verniciare non gli dai una bella levigata sopra per assottigliare un po', perché se fai troppa pellicola col tempo si sfoglia come le patate bollite, in poche parole qua. Allora è preferibile dargli sì una bella levigata e poi gli metti l'impregnante idrorepellente sera. Ok? Farò così. No, non è fermato così. Le ho fatte l'anno scorso. L'anno scorso l'estate. Capito? E sono belle, belle luci, ho visto che hanno tenuto molto bene. Mi piacciono. Capito? Quindi adesso lo cerco. Quando poi le dovrò rifare, dopo prima una bella carteggiata e poi vedo dirò le perlette. KK, no, sportelloni. Il tubersiano adesso una rottura di balle a farle, il sportellone con la carteggiata e tutto turismo, due baciate di bisello e fatto. Avanti Daniele. Certo che sì, cavolo, per fare per c'è e poi c'ha tutte quelle intagliature, diciamo, e ci vuole pazienza a farle, a scarteggiarle soprattutto. Lo so, Giulio già ci hanno fatto, abbiamo la tua scarpa perché devi fare piano piano con la tela, tutte le cose, capito, pulirle bene, poi verniciarle, ci vuole più tempo, sportellone è più facile. Infatti eravamo indecisi e abbiamo detto no, sportellone vanno benissimo, perfetto, buono il sportellone, capito, sono stati fatti i sportelloni a suo tempo. Va bene. Daniele, ti chiedo così, ma giusto per sapere, come ho chiesto a Giulio Iesce, va bene, questo 4.30, se secondo te è tutto regolare, a posto sia di segnale che di radio, ok? Niente da dire, grazie. Sì, segnale 9.30 e radio ottima per la truppa, va benissimo. Bene, Meda, vai Giulio. Ok, qua, sì, confermo, sì, al solito segnale, quello tuo e la radio, non c'è bisogno che dedica niente, se no te l'avrei già detto io da prima. Va benissimo, perfetto, a differenza di ieri che inizialmente, però poi ti eri messo a posto, non capisco per quale motivo, prima inizialmente eri un pochino appena più basso, però adesso sei sempre a quei livelli, sei quasi sulla striscia rossa del 20, ci vuole uno nulla, lo spessore di una cartina per la sigaretta, di quello spessore lì, manca per arrivare proprio al rosso del 9+20. Ok, avanti qua. Sì, Giulio, inizialmente perché era fermo, stavo usando sempre il Galaxy, adesso il Galaxy l'ho addirittura tolto, messo dentro la scatola, così dopo domani inizio a portare via tutto che sono andati via i muratori. Quindi penso dopo Pasqua di trasferirmi nella casa nuova sicuramente. Inizialmente quando l'ho acceso le stavo dando poca potenza, perché il tecnico mi ha detto il primo periodo usalo con poca potenza, mi stavo dando 5, neanche 10 watt, capito? E adesso l'ho messo praticamente a 15 watt di portante e una 20-25 modulati, diciamo, giusto per non forzarlo. E quindi sono i watt che usavo sempre normalmente, capito? Tutto qua. Ecco perché avevo perso qualche punto S. Avanti Daniele, prendi il cambio. Gara, è la mia bella, va, sì, là, sempre a posto. Con 60 sì Renato, con l'80 non è bianco, è troppo occupa la modulazione. Vai Giulio. Sì, la radio di Daniele è bellissima lo stesso, io voglio, ma glielo ho detto anche poc'anzi, perché poc'anzi inizialmente ero io e lui, anzi veramente ero io e Luca inizialmente, poi Luca si è dovuto assentare per merenda e è arrivato Daniele proprio in quelle stanze. Sicché ne avevamo già parlato, infatti già avevo detto anche dell'elicottero che tu hai detto poc'anzi riguardo dell'avventola, ma purtroppo è così, l'avventola ne abbiamo già discusso. E così, bene, io avevo fatto quel discorso che mi avevi consigliato di fare, avevo messo quella famosa resistenza, ho abbassato i giri dell'avventola e dunque si sente di meno, si sentirà ugualmente, però molto ma molto di meno. Meno fastidioso, dai. Bene, qua, sì, ormai sì, alla grande, no, non c'è problema, o qua. Avete considerato che allora che quello lì è stato tutto ben rimesso a nuovo, quella tua radio lì, e sicché lo smitter tuo, adesso è preciso sicuramente, non ci sono dubbi, Dimmi se il mio segnale è sempre quello, visto che io non chiedo mai controlli, ma suppongo solo perché tu hai la radio revisionata al 100% qua. Vai. Guarda, è di una perfezione allucinante. Sei 9 più 20 con picchi a 9 e 22, il tuo segnale. Inizialmente, prima di mandare la revisione, qualche volta ti ho sentito con questa, non arrivavi a 9 e 20. Adesso è perfettamente tarata, proprio preciso, anche Daniele, ma tutti avete segnale bello preciso. Infatti c'è differenza dal Galaxy a questa. C'è differenza, questa è precisa, precisa, a posto, sì, 9 più 20 con picchia, 9 più 22, anche 23 fai. Ok, infatti è per quello, visto che adesso mi è venuto a mente che la tua radio è stata revisionata dal tecnico alla grande, così adesso posso chiedere, io tu lo sai benissimo, l'avrai pure notato che non chiedo mai controlli, soprattutto quando si tratta di baracchini, cosa me ne importa di un controllo di un baracchino? Perché il baracchino si sa, è sempre quello che è, no, niente di particolare. Anche il garage, che è il garage, che è un bel baracchino, anche quello da sempre è stato sempre un pochino diciamo poco generoso. Lo Smith del garage è stato necco, io parlo di quello. E così dunque non, diciamo che non mi interessano quel, ecco, controllo del baracchino. Della radio sì, quello sì, no, non ci sono dubbi. Avanti Daniele. Gava, qua sei 9:20, dai. Sei tornato di nuovo al segnale originale di un tempo giù. Ok. Un giorno o l'altro mi decido e vi sposto anche l'antenna, che poi non ce n'è bisogno, perché va benissimo così. Ma visto che adesso fa un po' inizierà anche la propagazione, forse che mi sia talmente di spostarmi l'antenna dove la prima, cioè più in alto di almeno 5-6 metri, nella posizione originale dove c'era la manta turbo prima. Comunque, diciamo che questa adesso è già 3 anni che ce l'ho lì a quella posizione, sta andando alla grande, prima con l'autocostruita, adesso con la rimasta originale. Avanti Claudio. Cappa, vediamo se qualcuno vuole entrare. Ho sentito sotto qualcuno, chi è? Sento qualcuno sotto, lampade in dutto, mi sembra aver capito sotto di te. Vabbè, ti rompiamo tutto, cosa vuoi ti dica? No, vai benissimo Giulio, vai benissimo. No, ma neanche io non chiedo controlli, giustamente questa radio era ferma e quindi l'ho riattaccata, e giusto per fare le regolazioni, poi io non tocco mai niente. Vai Daniele. Anda bene. Io non so perché c'ho sempre il QRM alto, boh. In questa radio è una cosa allucinante. 140 è così, caro mio, a me è sempre piaciuta, una bellissima radio, l'ho sempre chiamata baracchino a sintonia continua, ma c'è un QRM, perché non ha filtri, non c'è nulla, i 430 e i 440 sono molto più selettivi, se 80 e 140 sono gemelli, sono un bel rumorosi, però come baracchino a sintonia continua va bene, sono meglio di un baracchino, Avanti Giulio. Sicuramente sì, non ci sono dubbi, infatti avevamo anche un discorso ieri, non lo so se tu hai ascoltato, che per spendere, per dire, dopo si è entrato, sì, entra che ti ripeto quello che abbiamo detto ieri, per spendere un po' di soldi con il baracchino, tanto vale spendere qualcosina in più e prendere un cappa, e beh certo, è tutta un'altra musica, non ci sono dubbi. Daniele, purtroppo il QRM c'è, è una frequenza maledetta questa. Io un po' meno perché ho da Game Master e dunque senza